Focus Economia con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, la pagina Facebook dalla quale andiamo anche in diretta video dall'altra parte del vetro. Valeria Bernardi in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in assistenza e in redazione. Di che cosa parleremo oggi? Torneremo almeno in parte sui temi che avete sentito poco fa dal nostro Oscar Giannino, la versione di Oscar, ossia il tema di questo Black Friday in arrivo. Magari non ne potrete nemmeno più di sentirne parlare, almeno in termini di promozione, però a nostro giudizio è un fatto economico rilevante. Ci sono due o tre fatti economici rilevanti. Il primo è ovviamente un fattore di consumo e l'impatto che ha il Black Friday complessivamente sui consumi. Per darvi un'idea, negli Stati Uniti nel periodo tra il Black Friday e Natale si realizza il 70% dei consumi totali dell'anno, questo per dare un po' la misura, l'arrivo in Italia ovviamente è un moltiplicatore di consumi, anche qua se vogliamo è l'avvio vero e proprio di quella che potremmo definire come la stagione natalizia, e quindi è uno spunto interessante dal punto di vista dei consumi, è uno spunto interessante dal punto di vista dei regolamenti, come in parte avete sentito e come tema del quale torneremo a parlare tra poco, nella seconda parte della trasmissione, ossia in termini proprio di leggi, come viene regolamentato tutto questo, perché al momento non è regolamentato. Qual è il problema però? Che il campo di gioco non è livellato, ossia quello che viene consentito alle grandi piattaforme tecnologiche che vendono online non è consentito ai negozi e alle aziende della grande distribuzione che sono sul territorio. E perché? Perché ci sono delle regole precise per quanto riguarda i saldi, le svendite e via dicendo, alle quali questi negozi fisici devono sottostare e che spesso variano da regione a regione, quando non da comune a comune. E quindi c'è un primo tema che è questo. E c'è un secondo tema che è un tema fiscale, ossia quanto queste aziende, grandi aziende internazionali, pagano le tasse in Italia. Riguarda ovviamente non solamente quelli che fanno vendita al dettaglio, ma un po' tutti. Abbiamo parlato spesso negli ultimi due giorni di Uber per vari motivi. Ieri ce ne siamo occupati per la fuga di notizie, o meglio la fuga di dati, il furto di dati che ha subito Uber e che ha tenuto nascosto. L'altro ieri ce ne siamo occupati perché c'era lo sciopero dei tassisti. Ebbene, Uber è un esempio almeno in parte, anche se non completamente, la situazione è diversa, anche Airbnb, insomma tutte queste grandi piattaforme tecnologiche, la stessa Google. C'è un'ipotesi di web tax formulata questa volta dal senatore del Partito Democratico Massimo Mucchetti, che a quanto pare ha ottenuto il sostegno del governo e quindi dovrebbe poter essere inserita in manovra, con una partenza in luglio, nel luglio dell'anno prossimo, e poi l'entrata al regime naturalmente nel 2019. Ci sono ovviamente delle criticità per quanto riguarda questa web tax all'italiana, che si fonda su monitoraggio dell'Agenzia delle Entrate attraverso lo spesometro, l'accertamento della stabile organizzazione e poi l'introduzione di un'imposta del 6%. Ne parleremo col collega del Sole 24 Ore che sta seguendo questa vicenda, che è Giovanni Parente, per farci spiegare un po' meglio che cosa si intende per web tax. Andremo a Roma poi. Roma, perché oggi c'è stato un altro appuntamento del tavolo tra il governo e i vertici della capitale per definire quali possono essere gli interventi per rimettere in sesto questa città in grande difficoltà. I nostri ascoltatori romani lo sanno perfettamente. Tra l'altro oggi la sindaca di Roma Virginia Raggi ha detto Approveremo in aula il bilancio nei tempi per garantire alla struttura centrale e periferica di lavorare in maniera corretta. Ci saranno 36 milioni in più per i municipi, 30 milioni in più sulla manutenzione delle strade e scuole. Stop all'era di scroccopoli. Nel frattempo, appunto, le condizioni di bilancio di Roma, insomma, lo sappiamo, sono quello che sono. In tutto questo si innesta in queste ore, ve lo segnalo come elemento, il rapporto presentato dalla commissione inchiesta apposita sulle periferie. Riguarda tutti, ma ovviamente riguarda anche anche soprattutto una grande città come Roma. Si parla della necessità di investire 25 miliardi complessivi in tutta Italia. E poi all'Italia, perché dopo l'esito dei negoziati con Lufthansa, il fondo americano Cerberus ha deciso di tornare alla carica con una possibile alleanza con EasyJet, è quello che riferisce oggi il Sole 24 Ore, e anche di questo parleremo. Ovviamente toccheremo il tema dei mercati, quello non manca mai da noi. Milano oggi positiva, più 0,29% il FTSE MIB, più 0,27% il FTSE Share. Il resto d'Europa, Parigi guadagna lo 0,6%, Francoforte in calo dello 0,02%, Londra che guadagna appena lo 0,01%, Wall Street è chiusa per il giorno del ringraziamento, la festa del ringraziamento. Iniziamo dunque dalle notizie in breve di oggi. L'oro stabile a 1291 dollari l'oncia, petrolio in lieve rialzo dello 0,3% a 58,2 dollari al barile. Wall Street chiusa, ma notizie agli Stati Uniti ne arrivano, perché la Federal Reserve ha segnalato ieri che un rialzo dei tassi potrebbe arrivare a dicembre, nonostante l'inflazione resti al palo. Cosa che sta iniziando a preoccupare alcuni dei membri della Fed, insieme alla formazione di potenziali squilibri finanziari. Emerge dalle minute, dai verbali della Federal Reserve. Tutto questo nonostante una situazione un po' strana, perché tutto questo avviene nonostante il mercato del lavoro continui a rafforzarsi, con datori di lavoro che faticano a trovare il personale che desiderano e dunque sono costretti ad alzare i salari. Insomma, normalmente quando crescono i salari cresce anche l'inflazione, e questo evidentemente non avviene nemmeno negli Stati Uniti. La pressione fiscale in Italia cala, va al 42,9% del PIL nel 2016 rispetto al 43,3% del 2015, riferisce l'OCSE, che segnala come rimaniamo comunque nella parte alta della classifica. Vabbè, su questo non abbiamo e non avevamo alcun dubbio. Siamo in sesta posizione fra i paesi dell'area. La pressione fiscale più forte è in Danimarca, con circa il 46%, poi la Francia 45,2%, Belgio 44,18%. Sempre notizie dall'Italia, ci sono le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Gentiloni proprio sul tema delle periferie, del quale vi accennavo poco fa. L'Italia ha bisogno di coesione sociale, dice Gentiloni, il paese si sta riprendendo ma non ha affatto superato le difficoltà sociali e i traumi della crisi. Ha auspicato un'iniezione di fiducia per migliorare, tutto questo firmando appunto il bando delle periferie, dando il via alla fase 2 del progetto che vedrà nuovi accordi con quasi 100 città. Obiettivo: il rammendo delle periferie. via libera al reddito di inclusione, nel senso che il via libera era già arrivato, adesso c'è l'operatività della cosa, è la prima misura nazionale di contrasto alla povertà. Dal 1 dicembre sarà possibile fare domanda all'INPS per chi è in situazione di bisogno. Il beneficio, che riguarderà innanzitutto, o meglio prima di tutto, le famiglie con minori, disabili, donne in gravidanza a 4 mesi dal parto e over 55 disoccupati, avrà un tetto di 485 euro al mese, pari a 5.800 euro l'anno circa o poco più. Arriva anche l'emendamento alla manovra per l'età pensionabile per i lavoratori, usuranti, lavori gravosi, come volete. L'ha presentata il governo. La proposta riguarda i lavoratori addetti ad attività gravose e lo sviluppo della previdenza complementare conseguente al confronto tra governo e organizzazioni sindacali. Nel 2019 saranno esonerati dall'aumento dell'età pensionabile a 67 anni 14.600 lavoratori appunto impegnati in lavori gravosi. Un pacchetto che vale complessivamente, il pacchetto pensioni, 300 milioni a regime. Il primo anno gli effetti negativi per la finanza pubblica saranno di 9,4 milioni per salire a 121,9 nel 2019 e continuare poi a salire più gradualmente negli anni successivi. A proposito di Black Friday, ci sono anche i dati di Confesercenti, perché sono già 14 milioni le persone che hanno deciso di approfittare della giornata di domani per una spesa media pro capite di 108 euro e un giro d'affari da 1,5 miliardi di euro. È una ricerca effettuata insieme ad SVG, elaborando i dati di un doppio sondaggio su consumatori e commercianti. E saranno oltre 200.000 negozi che aderiranno alla giornata di super sconti di domani, il 33% delle imprese del commercio di vicinato, in crescita del 23% rispetto allo scorso anno, dice Confesercenti. Sarà anche interessante capire dal punto di vista regolamentare come questo viene consentito. Infine, i dati che riguardano i contribuenti, i commercianti, sono, per gli studi di settore, visto che siamo in tema, i contribuenti che risultano meno congrui con il fisco. Al primo controllo sono solo il 57% risulta in regola con i redditi dichiarati, ma poi si adeguano e i regolari salgono al 68,6%. Questo vuol dire che c'è un 11% che in prima battuta ci prova e vede se gli va bene. Vengono superati dai servizi e piccole manifatture, che rimangono irregolari rispettivamente al 31,9% e al 31,7%, successivamente nella seconda fase. Veniamo al primo tema, visto che di tasse stiamo parlando, ossia la web tax. Ma sì, non ve la prendete sempre però. Allora, era una battuta. È chiaro che magari si adeguano perché il sistema fiscale italiano è estremamente complicato e quindi quando si fa una dichiarazione dei redditi si può commettere un errore. È ovvio. Sì, si scherzava. Abbiate pazienza. E poi magari ce n'è anche una parte che ci prova, perché non raccontiamocela tutta bella e meravigliosa. Scusate se mi innervosisco, perché poi si nota sempre si nota sempre il proprio. Facciamo una cosa, iniziamo proprio da qua, perché il mitico Giovanni Parente del Sole 24 Ore è un uomo che ne sa di tutto in termini sul fisco. Giovanni, ciao, buonasera. Ciao Simone, buonasera. Iniziamo proprio da qua, iniziamo proprio dai dati che vengono diffusi in questi minuti, che riguardano innanzitutto la congruità con il fisco, no? Che riguarda, qua si diceva appunto, i commercianti sono quelli che risultano meno congrui con il fisco, questo è il dato, e poi per gli studi di settore 2016 barbieri e lavanderie. Allora spiegaci la differenza tra i due dati, perché abbiamo indicazioni contrastanti in arrivo dalle agenzie di stampa, vai. No, Simone, sostanzialmente la fotografia degli studi di settore indica i soggetti che sono automaticamente in linea con il risultato richiesto agli studi di settore. Faccio un piccolo passo indietro: lo studio di settore è un meccanismo complesso che però, insomma, in qualche modo indica al contribuente quale sarebbe il ricavo atteso dalla sua attività sulla base di una serie di parametri, che è la sua localizzazione geografica, l'andamento del settore in cui opera, vengono anche nettizzati i fattori legati alla crisi economica, quindi il software produce un risultato atteso. Certo. A quel risultato atteso le partite IVA, che sono circa 3 milioni e mezzo, partite IVA intendo non solo professionisti ma anche imprese, ditte individuali, anche società che sono soggette a questo meccanismo, possono adeguarsi immediatamente in prima battuta o attraverso una serie di meccanismi, la sto banalizzando, che però possono portarti a dichiarare un po' di più e quindi a essere poi successivamente in linea col risultato atteso dallo studio di settore. Questo è il differenziale sostanzialmente fra quei due dati percentuali. Ma tra l'altro Giovanni, già che ci siamo, non dovevano essere superati gli studi di settore? Assolutamente sì, stanno per esserlo, nel senso che arriveranno quelli che si chiamano ISA, che non è una... Sì. Non è una donna, ma non è il diminutivo di Isabella. No, è l'acronimo di indicatori sintetici di affidabilità fiscale, proprio perché nel meccanismo complessivo questo nuovo strumento, che già subentrerà quindi all'anno imposto 2017 per 70 categorie, quindi sarà già applicato nella dichiarazione 2018, non servirà più come mezzo per accertare, quindi verificare chi non si adegua al fisco, ma proprio come promozione della cosiddetta compliance, cioè per dire io su questa serie di dati, che però sono costruiti su un arco nuovo di anni un po' più lungo, quasi 8 anni, tu mi dovresti dichiarare questo, dichiaramelo, perché hai dei vantaggi, dalla riduzione dei tempi di accertamento ai rimborsi più veloci, alla disapplicazione di norme sfavorevoli. Questo è il nuovo meccanismo, cioè più un meccanismo di incentivo che un meccanismo repressivo. Intanto diciamo che questi sono... Però la sostanza del calcolo, da quel che ho capito, da quel che mi racconti, cambia poco. Guarda, in linea teorica il meccanismo è quello, cioè nel senso che ti si prospetta un risultato, se sei molto bravo, cioè se in questa pagella fiscale ti attesti vicino ai voti alti, ti becchi... Te lo chiamo in un altro modo, ti metto l'incentivo invece del disincentivo e... Però insomma il calcolo più o meno penso non possa discostarsi molto, no, da come viene fatto attualmente. È un po' più elaborato, ma comunque insomma stringi. Cioè, là si arriva, non è che dobbiamo girarci troppo intorno, cioè si arriva in qualche modo a prospettarti un ricavo per le imprese, un compenso per i professionisti a cui il fisco si attende che tu ti debba quantomeno adeguare, ecco. Questo è il discorso. Naturalmente, ecco, vorrei fare una piccola premessa, perché sennò altrimenti non questi sono medie, stiamo sempre parlando di dati medi, quindi in un universo ci sono posizioni che spesso sono molto distanti, magari due negozi uno accanto all'altro, due professionisti che sono nella stessa strada e che però che operano nello stesso settore e che però guadagnano cifre radicalmente diverse, o semplicemente Simone, che dichiarano anche cifre completamente diverse. Cioè, non mi piace mai parlare di evasione fiscale. In Italia ci sono evasioni fiscali, perché è un fenomeno talmente diffuso e con talmente tante sfaccettature che quindi veramente non è che si può etichettare una categoria come evasori tout court e dire invece gli altri sono i buoni della situazione. Quindi bisogna sempre andare a cercare un po' con lanternino chi è effettivamente fedele al fisco e chi invece fa non il furbo ma evade e quindi fa un danno alla collettività. Posto naturalmente, lo ribadisco agli ascoltatori che stanno continuando a scriverci, che se il fisco ti dice non sei congruo e tu decidi di adeguarti a quello che ti dice il fisco, due sono le opzioni: o non vuoi rotture di scatole e ci può stare, cioè può essere un elemento, e però hai la disponibilità economica evidentemente per toglierti queste rotture di scatole, oppure appunto effettivamente non eri, no? I redditi dichiarati non corrispondevano presumibilmente. Poi ci sono mille altri motivi e mille altre storie in mezzo, come Giovanni Parente ci ha detto, perché ognuno di noi è un singolo, ognuno di noi ha la sua storia, come è perfettamente normale. Però Giovanni, noi ti abbiamo chiamato per parlare di questa web tax all'italiana, che nell'ultima formulazione porta la firma del senatore del PD Massimo Mucchetti, è PD ancora, questo non me lo ricordo più, sì, è ancora PD, Massimo Mucchetti, no, perché c'è stato qualche movimento nell'ultimo periodo dal Partito Democratico. Massimo Mucchetti invece ha deciso di rimanere là e ha presentato questa formulazione, questa web tax. In cosa consiste? È un meccanismo che si basa su tre presupposti per arrivare a quello che poi è sostanzialmente la regola generale, la regola più importante, che è l'applicazione di questa imposta del 6% sui ricavi relativi alle operazioni di alle prestazioni di servizi. Quindi non stiamo neanche parlando poi di vendite to cure che avvengono attraverso mezzi elettronici, internet o app quant'altro. Quindi sostanzialmente c'è questa cellulare al 6%, ma per arrivarci si punta anche a fare in modo che i cosiddetti over the top, cioè quelli che sono i big della rete, i big della delle operazioni digitali, poi effettivamente vengano tra virgolette riconosciuti dal fisco italiano. Come lo si fa? Attraverso un caro amico dei professionisti e delle imprese, cioè lo spesometro. E chi acquista da questi soggetti dovrà praticamente barrare poi una casella quando manda lo spesometro, che è la comunicazione dei dati e delle fatture IVA sostanzialmente, in cui dice di aver acquistato servizi digitali attraverso la rete. Sì. In questo modo l'Agenzia delle Entrate in qualche modo identificherà quelli che sono i soggetti che avendo effettuato un certo volume consistente di operazioni sia in termini di unità, in termini di proprio singole, sia in termini di valore complessivo economico, e quindi vi inviterà a dire che cosa volete fare, vi dotate o meno di una stabile organizzazione, parola che sembra complessa ma per dire, cioè vi consideriamo residenti in Italia e quindi pagate le tasse in Italia o no? E poi appunto c'è questa tassazione del 6% che colpisce appunto i ricavi da operazioni digitali, per cui però si è previsto un meccanismo di recupero attraverso un credito d'imposta, in modo da, te la sto banalizzando, che quelli che sono già soggetti a tassazione in Italia poi possono scontare dalle imposte da versare questa ulteriore tassazione. Mi sembra, Giovanni, un meccanismo molto complesso, o è una mia impressione? Sì, diciamo che c'è tutto un dibattito su come si fa pagare le tasse a questi grandissimi colossi, che non, essendo proprio figli di un'economia talmente fluida e non radicata, hanno difficoltà, pongono la difficoltà per le amministrazioni finanziarie nazionali di individuare esattamente dove producono i ricavi e dove esattamente vanno tassati. Quindi si stabilisce questo meccanismo per cercare di quantomeno colpirli alla fonte. Mi sembra di aver capito, Giovanni, da quel che dici, parlavi di fatture e cose di questo genere, gli ascoltatori ce lo stanno chiedendo in molti, dice, quindi varrà solamente per le imprese o teoricamente vale per tutti? Cioè anch'io dovrò barrare una casella? Che cosa dovrò fare? No, attenzione, questo vale per i soggetti, per le imprese e per i professionisti che sono sostanzialmente... Cioè compro pubblicità su Facebook e dovrò agire da sostituto d'imposta, ho capito bene? Esattamente, bravissimo Simone, l'hai spiegato perfettamente. Sostanzialmente tu è come se trattenessi quel 6%, Poi l'azienda che invece dall'altro lato subisce questa trattenuta, se è radicata in Italia, se la può poi scontare come sotto forma di credito d'imposta, compensandola con altre imposte, ma anche con contributi previdenziali che deve versare. Sì. È importante però che proprio questo meccanismo si basa molto sugli acquirenti, perché non potendo andare dall'altro lato, cioè perché dall'altro lato c'è il punto interrogativo, chi è che poi in qualche modo presta questi servizi? Lo becco in Italia, non lo becco in Italia, è radicato in un altro paese, Milano, Lussemburgo, sì. Allora c'è un grosso rischio, c'è un grosso rischio oggettivo, Giovanni, mi sembra che questi costi poi si scarichino sulle imprese, sui professionisti che devono utilizzare questi servizi. Cioè, se io compro lo spazio di archiviazione cloud o dei servizi cloud di Amazon, tanto per fare un esempio, oppure la pubblicità su Facebook, oppure ho il mio sistema di lavoro interno basato su Gmail e quindi pago a Google dei servizi, eccetera eccetera, è chiaro che questi se devono pagare una tassa, presumibilmente la scaricano su di me, non la pagano mica loro. Questo è un rischio concreto, tra l'altro abbiamo seguito anche la presentazione di questo emendamento, è un rischio che, come dire, in chi l'ha presentato, in chi ci ha lavorato è ben presente. Detto questo, la stima è di portare a casa 100-200 milioni per i primi anni, ma poi arrivare a 1 miliardo di getti, quindi dobbiamo anche fare un discorso anche di equità fiscale, perché cioè, certo. Se la piccola impresa, quella che fa gli studi di settore, poi le tasse deve pagare tutte. Guarda, è perfettamente chiaro il ragionamento, dall'altra parte bisogna capire bene quali sono i meccanismi, e probabilmente può darsi che siano meccanismi che non so se possono effettivamente funzionare proprio per la fluidità, no? di questi soggetti, e anche la fluidità che si possono dare le controparti eventualmente per risparmiare qualcosa, e questo è un altro punto su cui ragionare. Comunque, Giovanni, io intanto ti ringrazio, Giovanni Parente del Sole 24 Ore, per averci dato questo spunto su questo tema. Almeno parzialmente torneremo più avanti, perché ci occuperemo, come vi abbiamo detto, anche del Black Friday, soprattutto in termini di protesta che è arrivata forte. Oggi c'è un ampio servizio sul Sole 24 Ore da parte della grande distribuzione, che dice occhio che a costoro, non solo dal punto di vista fiscale ma anche dal punto di vista normativo, vengono consentite delle cose che a noi non vengono consentite, per esempio fare i saldi sostanzialmente quando vogliono. Il meteo, ci ritroviamo subito dopo. State ascoltando un programma offerto da DocFlow, agire in digitale. Scopri di più su docflow.com. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, la pagina Facebook dalla quale andiamo anche in diretta video. Se volete potete anche scrivere, commentare, là ovviamente vi leggiamo. Come sempre, quando tocchiamo il tema del fisco, dell'evasione fiscale e questioni simili, si scatena un dibattito, e io lo vedo. Un ascoltatore dice: commerciante, frattura del femore, 4 mesi, sono stato 4 mesi fermo, vai a spiegare a quelli che fanno gli studi di settore, all'algoritmo che fa gli studi di settore, che sono stato 4 mesi fermo, mi sono dovuto adeguare, ci dice. Dall'altra parte un altro ascoltatore che ci dice: sono un professionista da 35 anni nel settore fiscale, i massimi evasori sono i commercianti e i pubblici esercizi, dalla sua personale esperienza. Come vedete, storie singole, storie personali, storie diverse. Che gli studi di settore non siano stati uno strumento particolarmente efficace, e usiamo un eufemismo, siamo tutti perfettamente d'accordo. Che ci sia un problema di evasione in alcune categorie, possiamo essere altrettanto d'accordo anche su questo? Veniamo adesso a Roma, perché oggi è stato presentato il bilancio di previsione 2018-2020 di Roma Capitale. Un bilancio complesso per una città in netta difficoltà, un bilancio da oltre 4 miliardi. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, ciao Gianni, buonasera. Buonasera a voi. Iniziamo sentendo quello che ha detto la sindaca Virginia Raggi. Via. Sono importanti gli obiettivi che abbiamo perseguito con questi bilanci, con questo bilancio. Sono prevalentemente tre. Fine a Scroccopoli. Completa fine di Scroccopoli. Quella che abbiamo visto fino a questi giorni. Non ultimi, gli interventi sulle case occupate. Due. Non aumentano le tariffe, non aumentano le rette per gli asili nido, non aumentano le rette per il trasporto scolastico, non aumentano le rette per le mense scolastiche, non aumentano le rette per i mercati. Tre, investimenti. Investimenti soprattutto sugli ultimi. Ai municipi quest'anno vengono dati, con il bilancio di previsione, 36 milioni in più da investire sul sociale, per un totale complessivo di 271 milioni di euro. Ai municipi vengono dati 30 milioni in più per investimenti straordinari sulla manutenzione delle strade, sulle scuole. Ancora, investiamo altri 28 milioni sulla manutenzione delle strade di grande viabilità e 65 milioni di euro vanno per gli investimenti sul dissesto idrogeologico, per contrastare il dissesto idrogeologico e per avviare il lavoro di rifacimento delle fognature di Roma. Questi sono un po' i pilastri sui quali ci siamo mossi. In una città che continua a scoprire, a tirar fuori vicende incredibili, incredibili. Una l'abbiamo raccontata ieri in effetto giorno per chi l'avesse ascoltato, ed è questa storia dei 2000 abusivi nelle case popolari, o meglio non sono 2000 abusivi, in realtà gli abusivi complessivamente sono 3600, ma 2000 di questi non hanno proprio il diritto di starci. Alcuni hanno redditi tra 70 e 90 mila euro, altri hanno parcheggiano le Porsche sotto la casa popolare. Un'altra aveva 18 immobili e viveva in questa casa in centro perché così, perché dice che l'aveva ereditata dalla nonna. Perché c'è gente che eredita le case popolari, quindi una città nella quale mettere mano piuttosto pesantemente. Dopo il traffico ne parliamo con Gianni Trovati. Focus Economia. E qualcuno chiede: ma perché parlate del bilancio di Roma? E perché parliamo del bilancio di Roma? Perché è la città più grande d'Italia, perché è la capitale di questo paese, perché ha un bilancio da 4 miliardi e mezzo e perché finora i buchi di quella città li abbiamo pagati tutti, non solamente i romani. E quindi ci interessa il bilancio di Roma, perché poi finisce per svuotare il nostro portafoglio. Perché qua, sul dibattito che abbiamo fatto prima sulle tasse, alcuni dicono: sì, bisogna, il grande tema è abbassare le tasse il più possibile, così sconfiggi l'evasione. Possiamo anche essere d'accordo, però per abbassare le tasse devi spendere in una maniera decente. Dunque, che bilancio presenta la Raggi, Gianni Trovati? Vai. Presenta un bilancio in linea con quello che è successo a Roma negli ultimi anni e in linea con il fatto che i vincoli di una spesa rigidissima e di forti problemi di riscossione non lasciano tanto spazio alla fantasia. Un paio di numeri: il bilancio vale appunto 4 miliardi e mezzo all'anno, gli investimenti, la spesa in conto capitale prevista è in poco meno di 200 milioni all'anno, che è un po' pochino viste le dimensioni del bilancio e non si discosta dai bilanci degli anni passati della città. Per fare un esempio, Milano, che pure è molto più piccola, viaggia da molti anni intorno al miliardo, miliardo e 100 milioni all'anno di investimenti. Altra cifra chiave, 140 milioni, sono i debiti fuori bilancio. Invece dovrebbero essere, almeno nelle condizioni di una amministrazione normale, un episodio isolato e come dire patologico. Il debito fuori bilancio succede quando ti arriva per esempio una sentenza che tu perdi, non era previsto quando hai scritto il bilancio preventivo e quindi devi fare dei debiti aggiuntivi. Debiti fuori bilancio 140 milioni, investimenti meno di 200 milioni all'anno. Perché? Non perché è colpa dei grillini, oppure perché ci sono, come dicevi giustamente tu, dei problemi strutturali di cui non si intravede l'avvio di soluzione, e il bilancio è una gabbia. Se tu hai 23.000 dipendenti, la situazione delle partecipate da gestire, la situazione della spesa corrente dei municipi, che poi i municipi di Roma sono un po' più dei quartieri, sì, delle altre città, sono dei mini comuni, la spesa corrente che non si riesce a indirizzare, naturalmente sei in una gabbia, e per gli investimenti infrastrutturali ti resta poco. Quindi temo che la situazione, diciamo così, delle strade e delle infrastrutture di Roma faticherà ancora a migliorare, ma del resto non c'è la bacchetta magica, non ci sono le macchinette di Totò e Peppino per stampare i soldi e fare più investimenti. È un processo molto lento, forse troppo. Sì, in termini di riduzione di spesa, c'è qualche segnale all'interno di questo progetto di bilancio 2018-2020? Perché l'hai citato tu bene, quello è il grande tema. Abbiamo l'enorme buco delle partecipate, tra l'altro il direttore generale dell'AMA è saltato giusto adesso, insomma, il problema di ATAC e quello dei dipendenti del comune, che sono tantissimi. Sono tantissimi e rendono la spesa corrente rigida. Tu puoi ridurre quella che si chiama nel gergo orribile ormai in balzo la spesa aggredibile, cioè quella che tu tagli senza azzerare un servizio o senza ridurre, diciamo così, lo stipendio dei dipendenti comunali. Teniamo conto che siamo alla vigilia di un rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici, i contratti erano bloccati da molti anni, andavano sbloccati, lo dice anche la Corte Costituzionale, ma sono altri soldi di spesa di personale a carico dei comuni con cui il povero assessore al bilancio di Roma dovrà fare i conti. È una macchina veramente complicata, e però i milioni che si spostano da qui a lì, oppure la fine di Affittopoli, per carità di Dio, sì, è sacrosanta, non ci vuole il bilancio preventivo. Ah sì, sì, sì, ovviamente. Per finire Affittopoli. Sono piccole mosse all'interno del grande mare finanziario del Comune di Roma, che invece continua a essere molto... Io ho la pessima sensazione che toccherà rimetterci dei soldi nella capitale, però magari è solo una sensazione mia. Ci mettiamo già 300 milioni all'anno, non lo sappiamo neanche più, perché ormai capita dal 2008. Per cui ce li stiamo già mettendo. Grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore per questo racconto del bilancio della capitale. Avete anche capito perché ce ne siamo occupati, e non siamo faziosi. Allora, non stiamo picchiando sulla giunta. Abbiamo detto molto chiaramente che non è colpa della giunta, è il bilancio che è rigido, è fatto in questo modo perché i conti sono messi come sono. E sull'Affittopoli ve lo dico, perché dato che qua quelli del Movimento 5 Stelle si lamentano sempre, abbiamo parlato con l'assessore, è lei che ha tirato fuori la vicenda. Più di questo che cosa volete? Ci sentiamo subito dopo, abbiamo le borse all'Italia e poi ancora il Black Friday. Indagati, calo del PIL, Trump che litiga con Kim. Oh, certo che i giornali non ci aiutano molto a trovare buone notizie per fare un programma ottimista. No, Carlo, guarda, c'è anche il cuoco che cucina per i poveri, questa promettente startup di giovani studenti e un politico onesto. Oggi, domani si vedrà. Va bene, ma è convinto, si può fare davvero. Sabato iniziamo alle 7.30 e domenica alle 8. Presto, questa è una buona o una cattiva notizia? Ottima, io non vado neanche a letto. Si può fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Sabato dalle 7.30 alle 9 e domenica dalle 8 alle 10 su Radio 24. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da DocFlow, agire in digitale. Scopri di più su docflow.com. Focus Economia. Seconda parte di Focus Economia, di nuovo buonasera da Simone Spezia, è sempre 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, numeri di telefono ai quali, come ampiamente prevedibile, sta arrivando l'ondata di fedelissimi del Movimento 5 Stelle, che solo per il fatto che abbiamo parlato di Roma, ma solo per quello, perché in realtà non abbiamo detto niente sulla Giunta, abbiamo detto che la Giunta è ingabbiata in una condizione di bilancio drammatica che non ha certo creato la Giunta in un anno e mezzo, la Giunta Raggi, però per il solo fatto che si è parlato di Roma ce l'abbiamo con la Raggi. Imparare ad ascoltare. Andiamo ai mercati, va. Più 0,37% il FTSE MIB, più 0,33% il FTSE All Share. In una giornata orfana di Wall Street, il Thanksgiving oggi. Parigi guadagna 0,5%, Francoforte in calo dello 0,05%, Londra che perde lo 0,02%. Che giornata è stata? Eleonora Micheli, Radio Corrizione 24 ore, buonasera. Buonasera, sì, le borse europee in verità avevano aperto con il segno meno, poi sono migliorate nel corso della giornata, soprattutto dopo che in mattinata sono stati resi noti i dati sull'andamento dell'attività manifatturiera in Europa, molto positiva per dire la verità. Si tratta del dato migliore addirittura dagli anni 2000. Quindi questo ha sostenuto un po' le borse europee, tranne Francoforte e Londra. Francoforte in particolare è stata zavorrata ancora una volta dal fatto che l'impasse politico ovviamente frena un po' gli ordini in acquisto. Tra l'altro invece proprio oggi è stato reso noto l'andamento sul PIL della Germania, che nel terzo trimestre del 2017 ha continuato sicuramente a correre, mettendo a segno un progresso consistente. Detto questo, andando direttamente a Piazza Affari, si può dire che si sono messe in evidenza sin da metà mattina le azioni di Telecom Italia sull'ipotesi che la compagnia possa avere allo studio lo scorporo della rete. Tema quest'ultimo che potrebbe essere posto proprio all'attenzione del prossimo consiglio di amministrazione in data del prossimo 5 dicembre. Ovviamente si tratta per adesso di indiscrezioni di stampa, però si stanno infittendo voci e ipotesi in questo senso. Sì, tanto che Telecom Italia guadagna il 4,48% ed è di gran lunga il titolo migliore sul listino principale, se si considera che Enel guadagna l'1,51% ed è il secondo titolo migliore. Per quanto riguarda le banche? Sì, le banche invece in mattinata erano deboli, invece poi pian piano nel corso della giornata si sono riscattate e hanno chiuso quasi tutte positivamente, con UBI in particolare che si è distinta con un progresso di oltre l'1%, dell'1,1%, comunque è andata bene anche Unicredit, più 0,7%, OBiper che è salita dello 0,58%, Banco BPM dello 0,82%. Va detto tuttavia che fuori dal paniere principale sono andate male le banche Carige nel secondo giorno dell'aumento di capitale, hanno perso in particolare il 4,4%, ma soprattutto i diritti sono tracollati del 44%. E questo appunto per quanto riguarda le banche complessivamente. Un altro titolo che ha qualcosa a che dire con i francesi, ossia Mediaset. Abbiamo parlato di Telecom Italia, veniamo a Mediaset, che è andata bene oggi, no? Mediaset è andata bene, qualche giorno che va bene, in verità sul finale ha fatto più 0,85% e va detto che nel durante della seduta andava anche meglio. E in questo caso va detto che il mercato si interroga su questo eventuale accordo che potrebbe essere in arrivo e potrebbe riguardare Telecom, Mediaset e Vivendi, in quanto la joint venture tra Telecom e Canal Plus, che è una società controllata da Vivendi, potrebbe siglare un accordo con Mediaset per comprare i contenuti. E proprio come ha scritto ieri il Sole 24 Ore, si tratterebbe di un accordo di 6 anni, quindi di una durata considerevole e che ha scritto ieri il Sole 24 Ore, capace insomma di accontentare Mediaset per la mancata vendita invece di Premium. Poi va detto che sempre relativamente a Mediaset si sta avvicinando innanzitutto la data del 15 dicembre, quando sarà convocata l'assemblea dei soci, e inoltre la data del 19 dicembre, quando ci sarà la prima udienza in tribunale proprio per la citazione di Fininvest contro Vivendi, anche se gli analisti ritengono sempre più probabile che alla fine sarà trovato un accordo extragiudiziale tra Vivendi e la stessa Fininvest. Abbiamo detto di Telecom Italia, di Enel, vi segnalo anche che vanno bene complessivamente il lusso, Luxottica più 1,33%, Ferragamo più 1,24%, Moncler più 1,20%, va male invece chi lo vende il lusso nonostante ci si avvicini al Cyber Weekend, no? Yux Net-a-Porter. Sì, Yux Net-a-Porter ha fatto meno 1,38%, uno dei titoli peggiori, nonostante si avvicini il Cyber Weekend in cui la società farà offerte, e soprattutto ieri la società stessa ha comunicato di prevedere nei 4 giorni del Cyber Weekend di ricevere un ordine ogni 2 secondi. Però intanto anche a Londra sono andate abbastanza male tutte le grandi catene di supermercati, in previsione del fatto che poi le vendite del Black Friday, cioè di domani, potrebbero essere in verità più deludenti di quanto il mercato si attendesse nei giorni scorsi. Giù Azimuth dell'1,5%, Saipem dello 0,79%, Leonardo dello 0,75%, Fineco Bank dello 0,68%, debole Fiat oggi, Fiat Chrysler, meno 0,67%, così come Prismian che c'è dello 0,64%, Banca Generali lo 0,64%, infine debutta oggi in borsa Equita, Eleonora. Sì, Equita è andata bene, anche se va detto che si è un po' ha rallentato sicuramente il passo sul finale, è salita poco più del 2%, in mattinata invece era arrivata a segnare un progresso di oltre il 9%. Grazie Eleonora Micheli, Radio Cori il Sole 24 Ore per questo punto sui mercati, adesso il traffico, ci ritroviamo subito dopo per parlare di Alitalia. Focus Economia. Ed eccoci, eccoci di nuovo, i numeri li conoscete, i numeri di SMS e WhatsApp, c'è anche la diretta Facebook, continuiamo ad andare in diretta video anche sulla pagina di Radio 24, su quella di Focus Economia. Veniamo ad Alitalia prima di tornare al Black Friday, perché oggi Mara Monti del Sole 24 Ore che è in linea con noi. Mara, buonasera, ciao. Sì, buonasera a te e ai tuoi ascoltatori. Ha scritto un servizio proprio sul Sole 24 Ore raccontando che il fondo Cerberus, del quale si era parlato nelle settimane scorse perché aveva presentato un'offerta ma l'aveva presentata fuori tempo massimo, cioè non l'aveva messa in busta nella gara per Alitalia, ha dettagliato un po' meglio, tra l'altro proprio con te, che cosa intende fare. Da quel che si è capito, appunto, vorrebbe un'alleanza con EasyJet e poi anche l'intervento dello Stato, ho ben capito? Sì, devo dire che Alitalia non smette mai di stupirci. Noi pensavamo che ormai la proposta di Lufthansa, e molti lo pensavano, ormai fosse quella più percorribile anche dai commissari. E invece all'ultimo momento, così all'improvviso, appare questa insolita alleanza tra appunto il fondo di private equity americano Cerberus e EasyJet. E devo dire che questo sarebbe il primo caso per una compagnia low cost che arriva appunto a fare un'alleanza proprio con una compagnia, invece è una leading company come nel caso di Alitalia. E mercoledì e martedì è previsto il primo incontro con i rappresentanti del fondo Cerberus, arriverà appunto il numero 2 del gruppo e in particolare il responsabile del private equity, e sempre in settimana è previsto anche un incontro tra i commissari e il management di EasyJet. Ecco, c'è da dire comunque che il fondo ha posto come condizione irrinunciabile la costituzione di una holding in cui far entrare lo Stato attraverso CDP e i sindacati, non solo dei piloti ma anche del personale di terra e di volo. Quindi una partecipazione appunto dei lavoratori, no? In una modalità che abbiamo visto, che abbiamo visto altre volte. Appunto Cerberus al momento però non ha presentato alcuna offerta, Mara, in realtà concreta, nel senso che sappiamo questi elementi, conosciamo questi elementi costitutivi, ma quattrini sul tavolo ancora non ne abbiamo visti. No, finora offerte economiche non sono state fatte, non sono state avanzate. E ci sono solo indiscrezioni che parlano di una disponibilità di 400 milioni di dollari, però appunto una cifra che non è stata confermata. Quello che è stato confermato è che comunque loro sono intenzionati a fare un investimento di lungo termine in Alitalia, insieme appunto a EasyJet, e devo dire che è un'operazione nella quale entrambi i soggetti risulterebbero appunto in un certo qual modo vincenti, perché Cerberus, che è una compagnia americana e quindi ha il problema di non poter acquisire più del 49% di un vettore europeo, con EasyJet può appunto superare questo scoglio che è dettato dalla legge europea. Dal suo canto EasyJet, che ha necessità di crescita, può continuare appunto ad espandersi in Europa e in Italia in particolare, dove punta all'hub di Roma, ha già un importante hub in Italia che appunto è Milano Malpensa, e pensare anche a voli long haul, cioè di lungo raggio, sempre nella modalità low cost, come già sta facendo ad esempio Norwegian Airlines. Vedremo che cosa succederà successivamente. Intanto io ti ringrazio, Mara Monti. L'impressione comunque è che su Alitalia continueremo a vederne nei prossimi mesi sicuramente, forse chissà se anche questa volta malauguratamente può diventare un elemento di campagna elettorale, non ne possiamo più. Grazie comunque a Mara Monti del Sole 24 Ore per questo punto. A chiudere la guerra, per così dire, del Black Friday. Dunque, tradizione importata dagli Stati Uniti, soprattutto quando sono arrivate le grandi piattaforme di distribuzione americane in questo paese, perché il Black Friday è tradizionale giornata di shopping, il giorno dopo il giorno del ringraziamento, apre la stagione natalizia. E come si diceva in apertura, considerate che negli Stati Uniti tra il Black Friday, che è la giornata di domani, e Natale, se il periodo natalizio, si realizzano il 70% degli acquisti, sostanzialmente. 70% delle vendite, dei consumi. Per darvi la misura di quanto è importante negli Stati Uniti, arriva dunque anche in Italia, però arriva in un mercato che è regolato per i retailer fisici, estremamente regolato, e un po' meno regolato invece per i retailer digitali, soprattutto le grandi compagnie estere. Giorgio Sant'Ambrogio è presidente di ADM, l'associazione distribuzione moderna, comprende anche Coop e Conad, oltre a molti altri soggetti. La stessa Federdistribuzione è aderente ad ADM. Sant'Ambrogio, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Abbiamo parlato in apertura di questa trasmissione di Web Tax, e quello è un punto, ossia la tassazione di questi grandi colossi tecnologici, però il punto che vorremmo approfondire con lei adesso è la questione più puramente regolamentare, perché i soggetti della grande distribuzione italiani sono soggetti, scusate se insomma per aver messo soggetti due volte nella stessa frase, sono soggetti ad una regolamentazione locale e nazionale che consente di fare sconti solo in determinati momenti, a determinate condizioni e in determinati periodi dell'anno, mentre invece ovviamente chi vende online dagli Stati Uniti o ha la sede negli Stati Uniti o in qualsiasi luogo che consenta una fiscalità agevolata, invece può farli quando gli pare, no? Ah, sì, guardi, noi ieri abbiamo presentato un documento, diciamo, di programmazione economica che vogliamo presentare appunto al governo o al prossimo governo, in cui uno dei primo punto era appunto quello che riguarda la concorrenza. Poi abbiamo anche altri punti come la legalità, la certezza del diritto, rilancio dei consumi con dover scongiurare l'aumento dell'IVA piuttosto che favorire gli investimenti e la semplificazione del quadro normativo. Ma ritornando a quello della concorrenza, diciamo che noi vogliamo una concorrenza fair. Non siamo contro il Black Friday, non siamo contro l'ingresso chiaramente dei retailers, siamo però a favore di un mercato con le medesime regole. Ad esempio, noi, per quanto attiene alle vendite, come dire, sotto costo, noi possiamo soltanto, tutti i retailer fisici possono soltanto 3 volte l'anno, in base alla legge italiana, con il massimo 50 referenze specifiche. Bene, domani col Black Friday online ci saranno centinaia e centinaia di referenze, e già questa è la prima cosa che è sperequato. Poi abbiamo anche un'altra legge che ci inibisce di stare aperti tutte le festività dell'anno, mentre strutturalmente ovviamente gli retailer possono fare qualsiasi cosa tutti i giorni dell'anno, 365 volte, e questo è già un'ulteriore sperequazione. Quindi vogliamo ribadire, non siamo contro gli retailers, siamo a favore di un mercato corretto, fair, trasparenti, in cui tutti possono giocare con le stesse regole. Sì, al momento ci pare che una web tax, anche così minima, non sia ancora perequata rispetto alle nostre esigenze. Sì, Sant'Ambrogio, che poi poter tenere aperto nei festivi non vuol dire necessariamente tenere aperto nei festivi, vuol dire semplicemente averne la possibilità. Il punto, mi sembra di capire, quello che chiedete è più libertà, cioè più libertà di fare sconti quando vi pare, promozioni quando vi pare, vendite sotto costo quando vi pare, e possibilmente tenere aperto anche nei festivi quando lo riteniate necessario e quando riteniate che ci sia il mercato, no? Poi sono gli economics che ci permettono a tutti i nostri imprenditori di dire: mi conviene stare aperto la domenica pomeriggio o meno, 24 ore o meno, mettere sotto costo o meno. La possibilità deve essere offerta egualmente a tutti i retailer fisici e a quelli online. Poi si sceglie in base agli economics e i singoli imprenditori possono decidere. Imprenditori privati, da S Lunga a Vegea, a Selex, le cooperative, Coop, Conad e tutte le altre, devono avere la libertà di poter fare queste scelte. Le chiedo solo questo, prima di chiudere. Qualche ascoltatore ci fa notare: guarda, io in realtà di sconti e di vendite sotto costo ne vedo continuamente e sempre, ci dice un ascoltatore, una grossa catena, ogni domenica fa il 20% di sconto sui prodotti non food da me in Emilia Romagna. Cioè, non riesco a capire dov'è esattamente il discrimine, Sant'Ambrogio. Immagino che sia complesso e differenziato da regione a regione, addirittura da comune a comune, no? Sì, guardi, anche poter dire che è un sottocosto è oggettivamente complesso, perché poi dopo bisogna andare a capire qual è il costo per andare sotto, e la stagione contrattuale porta ad avere dei contratti con l'industria, sia food che non food, ci sono così tante poste contrattuali tali per cui non è facile. Detto questo, un 20% non può permettere il sottocosto, però quello che noi abbiamo ribadito ieri nel documento programmatico al governo è il perché, cioè non siamo un po' di supermercati, cioè la distribuzione moderna organizzata italiana fa sì che ci siano circa 60 milioni che ogni settimana vengano ai nostri punti di vendita a effettuare il processo di shopping. Non solo, ma oltre il 91% dei fornitori della nostra marca del distributore sono aziende italiane, e la marca del distributore ha fatto sì che, insieme a questi fenomeni promozionali, che negli ultimi 5 anni i cittadini, i consumatori italiani, venendo nei retailer fisici, hanno risparmiato, udite udite, 40 miliardi di euro, che è una grandissima finanziaria, solo venendo nei punti vendita fisici e potendo usufruire delle marche del distributore e delle promozioni, che, ripeto, non sono sotto costo perché sottocosto è regolato molto bene dalla legislazione italiana. E in un modo diverso. Allora, grazie a Giorgio Sant'Ambrogio, presidente dell'Associazione Distribuzione Moderna, che comprende appunto tante strutture e anche altre federazioni, per essere stato con noi, che chiedono più libertà, molto semplicemente. Grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in assistenza e redazione, Valeria Bernardi in regia. Focus Economia torna domani dopo il GR delle 17. Noi invece ci risentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24, libera la voglia di fare.